Oh, signor Battisio! Oh, la 23! Attenzione, signor Battisio! Chi è? Chi è? Ehi! Alessio! Dimmi tutto! Cosa vuoi che ti dica? Quello che vuoi! Quello che vuoi! Oh, ia, ia. Sono qua, siamo appena entrati, la verità. Cosa c'è, Alessio? Che sono appena rientrato, detto. Però facciamo lo stesso, perché altro. I negozi, una patata all'altra. Cosa ho preso, no? Ho detto, stavo facendo la spesa da una parte all'altra, detto. E sono appena rientrando. Alessio mi si è ascoltato, sì o emmo? Aspetta, c'è più, di sottofondo. Che c'hai? Che e adesso va meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la no, più pulita. Aspetta, intendiamo di più di sottofondo che attenti in via. Adesso dimmelo adesso che non avevo capito nulla. Che sto appena rientrando, sono a casa, ho fatto la spesa dello spin poco fa. E va tu, già ce l'hai vicino, a due passi. Domani. Io vado via Verona per la spesa, non vado qua. E qui non conviene, capito? Non mi viene tanto giù, quindi prendo il tram a 5, poi salgo sopra e a parte è qui un casino. Uno è muda e l'altro è quello nazionale, cambiano le cose. Allora, questo qua è muda e l'altro? L'altro invece è quello nazionale, naturalmente. E lo spin vero proprio, capito, quello, come ti posso dire, naturale. Uno è Muda Market, che l'ha preso in cosa, cosa vuol dire, come, tipo la coppa, no? Facciamo che sia così, che mi hai capito. Ma c'è sempre le stesse cose, mi c'hanno, come lì ce li allami. No, cambiamo le cose, cambiamo bene. Perché Mura c'ha la carne che è totalmente diversa da quella dello spin normale. Cambia totalmente il prezzo. Ah, così è. E vabbè, va a raccarreggiarla. Ci avrà. Appunto, ma è sempre stato così. Anche quando devi inviare le conci, la verità. Perché c'è una macelleria di fronte, poi da lì in pratica l'avrà eliminata e quindi a un certo punto. Se no ti facciamo la carne davanti, già lo sai anche tu, via le conce. Sì, infatti già è così. Vabbè che Mura è sempre più alto di prezzi. Mura è più che altro più basso di prezzi, non più alto, ma comunque sia. Adesso invece c'è la questione della Kobe, perché è la Kobe che sta fallendo, quindi a un certo punto la carne la trovi la metà di quanto la trovi alla dello spin. Perlomeno io parlo di quella che c'è qui, la Kobe, che naturalmente. Perché qua tre bistecche di maiale paghi 3 euro, e poi le fettine di cavallo le paghi 2,50 euro. Oh, la metà, no. Quindi la questione è quella, a un certo punto hanno cominciato a cioè, sai che qua è come se fosse un paesotto, diciamola, e quindi hanno cambiato i prezzi. Non lo so se è così, c'è così. Ah, ho capito. Che già è così del coso, di essere... Esatto, sì, ma è così. Si fa risparmio, meglio così. Cioè, tre fettine di cavallo, se le paghi 3 euro non va bene, a un certo punto, ma fresche però, quando tagli col coltello come se fosse pane normale, non è che vai a mangiarle, sembra che c'è mangiato cemento, cosa ti posso dire, colla o cemento. C'è la cosa che conviene di più, va bene, no è che sta fallendo. Abbassate i prezzi per poter vendere. Sì, vabbè, più che altro la carne è diversa, più che altro, la verità, perché la carne c'è una bella differenza. dal maiale a cavallo, e quindi conviene più direttamente con la coppia che c'è di fronte a casa. Costa di meno. Se spedire di cavallo 3 euro, cosa vuoi di più? A un certo punto, magari sarà cavallo in baia, cosa ne so, cavallo baby, cosa ne so io. Comunque sì, è morbido, morbido e buono. Ah, quello sì. Ed è quello che c'è a Carbonazzi, così è, la CRA. La Cobec, non la CRA, la Cobec c'è a Carbonazzi, Sigma, come la vuoi chiamare? Ha già compreso qual è, ho capito, quella vicina alla banca. Esatto, sì, proprio quella. Sì. Sì, sì. E vabbè, loro lo stanno facendo per poter abbassare i prezzi, per poter vendere. Sì, vabbè, bisogna buttarsi a me. L'importante è che abbia roba buona, poi se la piglia in Napoli. Ieri sera, cioè ieri mattina sono andato a comprare la roba. E quindi ho fatto una buona spesa, la verità. Mi è convenuto a un certo punto. Infatti. Così no, lo stanno facendo più che altri per vendere e non licenziare i così che ci sono, le commesse e i commessi. Sì, quello che mi ha peccato è che a me non sia roba buona. La verità è la carne è fresca, boh, la verità non so se è roba assata. Che mi sembra possibile, comunque sia, comunque è morbida, quindi senza grassi, senza niente, quando la metti nella piazza è una cosa tranquilla, capito? Non si fa l'acqua che si apre in due, capito? Te la accorgi subito quando è la bastrana, perché la bistecca in pratica si allarga, si forma una specie di cresta di grasso, e in pratica serve acqua e altro. No, ma se lo sto mettendo a quel prezzo sono buone e lo sto facendo per vendere, ecco cosa è. È appunto bravissimo, appunto per quello, quindi. E infatti ho fatto così, ho fatto una spesa lì. Penso più tranquillo. Per il resto poi la rimanenza l'ho pigliata nello spin e se la piglia in Napoli. E sono tranquillo. Lo fanno per non licenziare i commessi che ci sono. Che cos'è? Beh, mi sembra una cosa lucida la verità. Purtroppo è così. Aspetta che c'è mia madre, c'è entrato Bacchisio. Attenzione Bacchisio, ma arrivi da ancora. E arriverà dopo, senz'altro. Sicuramente sono andato a farsi dare le batterie. E per che cosa? Per il PMR? Oh, più che altro gli dà le batterie il sabato, della festa. Oggi ci sono t'azienda, ci sono. Lo so che ci sono in azienda stasera, già lo so anch'io. Ma delle cose devi battere, non ho compreso. Cioè, se c'è PMR c'è portata, non è che usava per la 27, no? So se è inutile usare i PMR. Ma gli dà le batterie lo stesso, gli dà. Ecco già. Non so se ve l'ha detto Battiglia, ma non lo so. Perché ogni anno ci dava le batterie. E non ce la facciamo, ce la mettiamo ancora le batterie, boh. Se siamo usando i PMR, è la verità. A meno che non si usi i bacchetti o le batterie. Cosa vuoi dire? Io non so cosa dirti. Io c'ho il PMR. Poi non lo so gli altri cosa c'hanno. Se c'hanno la 27 si arrangia, io non so cosa fare, la verità. Io ne ho 4 PMR, quindi non lo so. Cosa faccio? Uso 2 PMR e poi più li portate sulla 27, così passo per scemo cazzo davanti alla processione. No, portane 2, portane, che uno serve a Giovanni e non ha. La Battiglia già ce l'ha un PMR. Ma io ho PMR, non ho 27 metri, sto dicendo, io ho 2 PMR, sono gli 888. È inutile se faccio la batteria, cosa se ne fa da fare? Scusa, a un certo punto non sai fare niente. Non so neanche se gliel'ha detto per le batterie, non so neanche, quindi non so nulla di quello. So che ogni anno ci dava le batterie, l'anno scorso non le abbiamo adoperate, quindi abbiamo usato il PMR l'anno scorso. E quindi si usa il PMR, si usa. Domani mattina gli do il foglio delle frequenze, che voleva il foglio delle frequenze, e glielo passo domani mattina. Sì, il foglio delle frequenze lo sai, sono due. C'erano 8 canali, c'era proprio la canale 7. Il canale è quello libero e siamo a posto. E parliamo tranquillamente, non c'è nessuno che ci rompa le balle. Sono le 7 e l'8. Tanto è uguale, non cambia nulla. No, dove deve salire un canale, o un canale più su o l'altro canale più sotto dovete salire, però già te lo dice Bacchisio. Boh, non lo so, vedrà lui, io cosa vuoi che dica, io la 27 ce l'ho il portatile, però la verità non so cosa dire. Io porto il PMR, non mi porto mica la 27 appresso, cosa faccio invece di turno, mi porto due portatili. Ah, ce la faccio a portarmi lenti con 50 S, con la tela lunga 1,20 m, e poi l'altro con la tela in gomma, così faccio la parte dello scemo. A un certo punto è meglio che metta la croce in mezzo, così porto la croce e siamo a posto. Ah, oh, porti solo il PMR, uscito solo con il PMR. Ah, quello sì, lui deve spiegare, noi abbiamo il PMR e basta, non abbiamo nessuna altra cosa. Allora, delle batterie non ce ne porta niente, ci vorrebbe per dire... cosa ti posso dire? Un tanto per andare a berci qualcosa al bar, quello che è, dopo che è finito, come si chiama? A me mi sta anche bene, per dire, oppure non dico quello, un panino, un piso di bar di piatti, però allora ci viene la batteria, a me non me ne fate proprio, la batteria è proprio. Cosa me ne faccio le batterie? Non ne faccio niente io, non mi interessa niente, io però che ce l'ho a casa, non è che ho un attimo 27 la verità. Stiamo usando il PMR, usiamo il PMR, basta, il coso è chiuso. Sì, solo il PMR usi. No, non cercavo neanche la 27. Intanto devo passargli il foglio delle frequenze a Bacchigio, guarda lui dove andare. Sì, basta andare sul 7, chiedo che ci va, non ci va, devo stare che è tutto libero. 7, 8, no, non è quello il problema. Quindi no, non è quello lì, ci picchia. No, sul coso, sul 7 sei sempre occupato, quindi... Ho un canale su o un canale sotto? Ok, ne abbiamo 8 canali, quante ne vuoi? Ne abbiamo 8 canali, quindi ci basta. Dall'uno all'8, basta scegliere. Per quello non ci sono problemi, io ne ho 16 di canali, sono 8 PMR e 8 DPD. Possiamo andare anche nel numero di PD se non va bene in PMR, e quindi parliamo tranquillamente nel numero di PD che può fare più, quindi non cambia niente. Infatti, bisogna fare... già lo so Bacchisio poi dove deve andare, per non disturbarci nessuno, ecco cos'è. Vabbè, non c'è problema per quello. Il DPD canale 1 è 433075, a quanto mi ricordo io. Poi, vabbè, già lo sa anche lui, a un certo punto. Sì, già lo sa lui dove... Tanto lo mettete quando siete lì... Nella chiesa mettete le frequenze giuste uno con l'altro. Vabbè, allora mi foto l'altro, anche perché io ce l'ho già canalizzato, quindi a cercare la frequenza giusta è... Vabbè, se è bene, io ce l'ho 7 in pratica, in PMR, poi se vuole passare gli altri canali non c'è problema con quello. Qua se ce ne hai uno con cosa, col display? Ce l'ho, e cosa me ne faccio con il display, la verità? Non ne faccio niente, perché io ci ho scritto non ci ho scritto la frequenza, ci ho scritto solamente il canale, capito? Quindi col display cosa me ne vuoto? Non ne vuoto nulla. non posso andare in una frequenza così di altre persone, capito? Vabbè, adesso vabbè, sei entrato. Attenzione, signor Battisio! Non deve essere ancora entrato. Sì, sarà in giro, sarò stessato. Ah, si doveva avvicinare dal comitato. Si doveva avvicinare. Ah, beh, allora. Comunque io c'ho parlato degli effetti e PMR, poi decidendo cosa vuol fare, Battisio. Perché nella nostra frequenza non ho... impostarmela così non fa, capito? Deve decidere lui, o PMR o l'EPD, il discorso è quello, ce li ho tutti io. Non lo so cosa usa, quello che ho io arriva sino a tre canali più giù, no, aspetta, sono 8, 16 canali, 8 più 6 canali più giù. E anche io c'è uno di quelli fatto così, ma ne usano anche uno e l'altro, secondo te cosa fai? Il discorso è quello, non è normale, capito? Vabbè dai, già lo saprà Battisio dove andare, non ci va molto giù. Ah, già lo sa Battisio domani. Non lo so, vedrà lui cosa fare, altro che posso dire, deciderà lui, decido io, quindi io ho comunque gli apparati, ne ho due che fanno l'EPD e PMR, poi uno solamente fa più di 16 canali, la verità. E quindi, ma uno solo, l'altro invece è normale, l'ho lasciato normale, quindi a un certo punto avere due, impostare la frequenza è un casino, perché non la so neanche la frequenza, ti dovete dire. Vabbè, andate, va benissimo, attenzione signor Battisio, manco Gian Maria per casina. Comunque sono 16 canali PMR, tanto per essere chiari. Cos'è? Che sono 16 canali PMR. Sì, quello nero che ho io c'ha 16 canali, c'ha. Ho capito, ma sono solamente PMR, non LPD. Io invece ho 8, e 8 e 8 sono. Capito? Sono sempre 16 canali, ma sono in pratica divisi 8 in PMR e 8 in LPD, quindi la questione è quella. Sì, è così, 8 e 8, infatti. Sono 16 canali in tutto. Quello che ho io è così. Io ho quelli lì, ho gli 88, i due portati. Siccome in quella zona lì, lo sai, non è che ti puoi permettere di uscire con roba come si deve, lo sai, no? Passa uno, magari te lo braccia, e rimane senza portati, senza nulla, e quindi a un certo punto bisogna stare molto attenti lì, specialmente alla veloce. Cioè, finché arriva... La processione è in corso, è un discorso, quando invece ti fermi, e lo sai che ci sono gli avvoltoi. Io lo so, sì. Vabbè, io ho già Battisio domani di andare. È meglio così, sono d'accordo anche io con te. Sono contento. Per sapere dove stavo, più che altro lì. Non ti puoi fare nulla, quindi bisogna andare senza banco, ma senza niente, senza portafoglio, senza nulla. Cioè solamente lì, se dici 5 euro in tasca e basta, forse è meglio. Perché a un certo punto magari ti passa uno a fianco, te ne fai il portafoglio e sei buttito. Cosa fa perché c'è adesso? Crocro. Forse. Bisogna fare così, bisogna fare. Tanto a mettere tutte quante così e tutto. Si parte alle 5, si partirà alle 5:10. E va bene, arrivare lì, come si chiama, sono le 7, 7 e mezzo, perché è una cosa umana, dopodiché si vedrà, adesso deciderò, secondo me resta direttamente a casa, se la piglia in Napoli, non ci sono neanche a fare gli assaggi e cose del genere. Hai capito? Non mi conviene. Anche perché è un casino piano di il Sam, l'altro, cioè arrivare su di qua, capito, va 25. L'ultima passa alle 9, quindi è un casino. 9, 9, 20 massimo. L'ultima è quella. Non finisce alle 7, 7 e mezza, finisce alle 6 e mezza la processione. Poi dopo di 10 minuti, un quarto d'ora andate alla sede che c'è il rinfresco. Vabbè, assaggiando qualcosa, portami più minnando, perché non fa rimanere, capito? Massimo le 9. Prendi i piedi e me ne vado via. Fino a 25 me ne siamo a casa, perché l'ultimo tra è lì. Anche, cioè, la mia volta è mica passata lì, se fosse passata la mia volta sarebbe stato un discorso diverso, ma siccome non ci passa. Mi toccherebbe andare alla stazione, fare tutto il giro, o saranno, a farmi la mettere in culo dei liberi, non esiste. Preferisco andare con la verità mette linea diretta e se la tocca in culo. Già se ne va. Se ne va insieme a Bacchigio, ma se ne va lui. Tanto una mezz'oretta in TV, in TV. E poi se ne va Bacchigio. Vabbè, non c'è problema per quello. Già sono tranquillo, non si dice, ci mancherebbe. Già andare. Sono così fermo. Io non ci sono, se no c'ero rimasto io stasera, domani sera. E vabbè, che certo, sei venuto anch'io, ma non è quello il problema, capito? Non è che... Anzi, mi serve... La verità, sei stato tranquillo, ci puoi stare anche tu. Una persona più ci erano divertiti, a dire, ma... Pazienza. Se non ci sei che sei occupato... Non succede nulla a me. No, cosa devi succedere? Certo. Sono domani mattina, domani sera prendo alle 3.20, alle 4 sono lì, alla, come si chiama? Perché passa alle 3.20 qua, alle 4.04 sono alla chiesa, aspetta lui e poi si vedrà. Vedremo quello che c'è da fare. Tanto lo trovi a Giovanni lì, trovi anche. C'è Bacchigio e Giovanni lì. Te ne scendi di fronte al campo, te ne scendi. Già non sono del campo, non ti preoccupare, già non sono del campo sportivo. Poi ci sono i corsi, ci sono in azienda. Forse che non me lo ricordo neanche dove diavolo è. Una volta ce l'ho andato, la verità, la festa che era la Teologia. Non mi ricordo manco più dove la tavola era piazzata, figurati tu. Però adesso diamo un ricordo, grazie a Dio. Se ne scendi lì, andare là. Attenzione, signor Bacchigio! Andate a fa. Ah, dammelo mi, buonasera. Millo mi che è entrato, mi parli male di lui e entra subito. Ha le orecchie come l'aeroplano, c'ha. Me è parito, eh. Ah, in getta che accontenti. Stavo a parlare vicino a quel microfono che gli ho dato. Arriva a basso di radio, lo sa, già l'altra volta, gliel'ho anche detto quando gliel'ho dato. Guarda, ho detto che non ci sono, ho detto capsule, ho detto il microfono normale, a Sassari. Ti ho messo una capsula, ho detto di microfono di citofono, ti ho messo, ho detto, cioè per non lasciare senza microfono, ho detto, ti ho messo un microfono, ho detto, più largo. Allora, ci vicino in modo che ti sentano, perché hai detto io quando ho provato uscivo bene, tutto lì. Allora si mette un chilometro lontano, si mette, cazzo. Adesso ormai si ritira questo microfono, la foglia è stata tra la stessa identica cosa, lui è abituato a stare 3 km lontano dal microfono, non cambierebbe nulla. Aspettavo mai, domani sera quando entra, che sarà la stessa identica cosa. che quei microfoni sono un po'... ma bisogna trovarli e ordinarli, due, tre capsule. Non ce n'è, ho chiesto a Fusaro, ho chiesto a DPC, non ne ha nessuno dei due. E quindi per quelle, per non lasciarlo senza microfoni, con l'apparecchio, ho dovuto mettergli una capsula, gli ho anche detto. Ho detto, guarda, ti ho messo una capsula di telefono, gli ho detto. Perché ho detto, non c'era altro, gli ho detto. Poi ti ho ricordato, mi hai sentito, e tu, e io uscivo bene, lui c'ha la maniera di parlare di distanze. Deve parlare vicino al microfono, se no non lo senti. E così succederà anche con l'altro che dirò, quello l'appaglietto originale. E non cambieranno le cose, uscirà sempre basso il radio, perché lui si mette quasi un chilometro di distanza. O si mette un microfono amplificato, se no niente da fare a un certo punto. Sì, bisogna guardare in internet, guardare e ordinarle. Ma se devi bongo e a Baido c'è la ciappo. Ce l'ho il microfono della pagliette, ma l'ho recuperato da un barattino che mi ha regalato mio cognato, è la pagliette originale. Quindi cioè, non fa altro che togliere quello e infilare l'altro. Non deve fare altro, il discorso è quello lì. Ed è il microfono originale, la pagliette. Per esattezza. Con la capsula originale, la 600 ohm, anzi non 600, 500 per esattezza. Quindi, però lui deve parlare vicino, non deve solo mettere a cazzo di distante un metro. E se solo mette distante un metro non esce, è inutile stare così. Il discorso è quello lì, capito? O si mette un microfono preficcato, ma se no sarà sempre la stessa identica cosa. Sì. Ma detto che glielo scendi domani, scendiglielo. Gli ho detto che glielo scendo domani, ti ho detto. Gli ho detto. Guarda che ti ho detto, glielo scendo domani. Perché ho detto, mi ha regalato un barattino del mio cognato, un Lafayette per esattezza, 40 canali, che non serve a nulla. E mi ha regalato tutto, barattino e microfono, e quindi a un certo punto l'ho conservato proprio per lui, che altro, non per me, e lui me la faccio io. Poi c'ho un microfono amplificato che è lo stesso attacco di quello della Lafayette, quello del genere, e quello è F10, hai capito? Sicuro, buonasera a tutti, benvenuti. Oh, signor Marchisio! Ascolta, domani mattina ti passo il foglio delle frequenze, ti passo. Va bene. Domani mattina, dove me lo passi? Qua a casa o in campagna, sì? No, c'ho altra cosa. A che ora sei a casa? A mezzogiorno? Mezzogiorno di cuoco. Allora fammi sapere quando ci arrivi da casa, te lo passo a casa direttamente. Va benissimo allora. Anda bene. Va bene, dottor Salamone, buonasera anche a lei. Buonasera anche a lei, dottore. Non ti sento più basso di segnale, strano. Come più basso? No, sempre questo è l'Intec 34. E segnale 5, passi ad essere 9. Ieri 9, oggi sei 5. Aspetta con altro. Aspetta con ma io. Ti mandati. Aspetta 2 minuti, voglio staccare lo spezzone da qui al lineare. 2 minuti. Oh, a me stai arrivando 9.30, Marchi. No, con quello sei basso. Attacca il coso, sposta la levetta. Ragione, mi ero dimenticato. Mi arriva alle 9.30. Questo è l'Inter che è nuovo. E no che sei 9.30, sì. Ce l'hanno già che tu arrivi basso. Basso. Vedi adesso? Quasi 9.6, avrei da segnare. Ho attaccato lo spezzone dalla baracchina lineare. Aspetta, adesso quasi 9, con quello là cosa era? È poco fare più basso, ma adesso non so se magari i problemi sono i miei, la verità si ricava comunque sia. Vabbè, ho staccato lo spezzone adesso e quindi ti ascolto meglio. Questo è nuovo, poco fa stavo usando l'Intec vecchio. Prova tu, dove? Guarda a vedere, io gli atterremo voci. 9 e 10, sì. Dovrebbe essere anche Bacchigi così. ma non lo è purtroppo. Non lo è. Guarda adesso. Oh, Antonello, guarda un po' come sto uscendo. Adesso sì che ci sei. È quello che poco fa che mette che non uscivo. Questo qua. Questo qui è il ricorso. L'Intec 34S. Per fare la allucinante, boh. Forse non so bevi la levetta inserita. No, questo è giusto, perché mi sto segnando io il latte. Capito. Sembra che se aveva un collega che non fosse posto stava zitto questo baracchino. L'ho trovato al difetto. No, cioè leggermente più basso dal segnale dell'altro, 9,5, 5 dB in meno. Questo qua c'aveva un filo del microfono staccato e quando lo muovevi, cosa succedeva? Che non usciva in contatto, non c'era contatto. L'ho aperto altre volte, ma che domani veniva a chiamare Azzurri e c'era un filo staccato. Ho capito, Scusa, comunque adesso sei... Vabbè, sei salito di segnare adesso. Eia. No, io sento un ritorno, c'è un ritorno di frequenza, forse è la colonnina che me lo fa. No, guarda che deve essere l'altro apparato, spegnilo. È spento l'altro apparato. Non può essere la colonnina. Io dico di sì. No. La colonnina, mi sento che fischia. Infatti fischia. Quando mi metto in direzione della colonnina fischia. Allora abbassa appena appena il volume. Invece adesso l'ho staccato. E non lo faggi. E non lo fa più, vedi? Io ce li ho tutti e due attaccati, è puro. No? Adesso le riattacco. Adesso vedo un po' che c'è. Lo trovo un buco, va. Bella beffa. Lo trovo un buco. Infatti, allora non le fendi. Lo sei uscendo? Mio bacchino, stai uscendo? Ciucu, ascolta, io sto chiudendo. Sono a fare la cena, ci sentiamo domani mattina, dimmi, se no domani sera. Vabbè, ci vediamo domani sera alle 4 via con Bacchiso, non c'è problema, adesso piglio il treno alle 3.20 e quindi alle 4.10 sono di là io, lì alla chiesa, non c'è problema, ti porto i due portate e siamo a posto, e il microfono, così, vabbè, ok, ci sentiamo domani mattina, se entrate, se no domani sera, ci vediamo di persona, ok, ciao a tutti, buonanotte e buon tutto. Ciao Antone, ci sentiamo. Ok. Si prende Bacchi. No, se scende Bacchi, stacca le casse. Ma si può essere le casse. Stai uscendo ma sei basso, tira sul tasto. Ehi, mi dimentico di commutare. Ehi, certo che andiamo e andiamo. Oh, deve essere le colonnine che le porta via tutto. Sì, le colonnine le devi staccare allora. Infatti devi staccare tutto. Adesso le trovo qua. Domani quando ti dà qualcosa, quel microfono, glielo provi e vedi come esci. Tu da chi? Tu date nulla. Io. Nulla. Nulla. Adesso sì, prova. 1, 2, 3, vai. Adesso sì. Adesso sto usando le colonnine sul nuovo. Le colonnine stanno usando, non esca. Ma non è che hai sbagliato un buco uno per caso. Va, due buchi va un buco solo. Ah, ne, uno per gozo, per uscire in NB. È uno baro per le colonnine. Ma il nuovo però? No, il vecchio. Ah, il vecchio ne ha uno solo. Uno solo ne ha. E allora ti ha interrotto il coso, ti ha interrotto. delle cose delle, di parlare. Ecco, questo è nuovo, e sono attaccate le colonnine e stanno andando bene. Senti che sono. Allora ti hanno innescato le colonnine sul parlare. Innesca su quello là, adesso lo riprovo. A vedere un po' se è venuto un mal di pancia. Il tasto, ricordati. Prova Bacchi. No, sono di portante. Mica sono io. Chi è? Buonanotte. Dov'è? Tu sì. Ah, mi senti a notte. Come mai a volte esci, a volte esci basso? Basso so. Ecco. Avanti il brecco. Ciao Tony, ciao Gio Maria. So che ci sia, c'è un'altra persona che mette la portante, però è sempre muta. Franco, la so, sono anche tu. Buonasera Franco. No, deve essere Gio Maria e Bacchigio. Non lo so se tutti e due esce di portante. Attenzione, Bacchi! Ehi, buonasera generale Franco, mi hai ascoltato. Ancora male sto uscendo. È solo di portante stavi uscendo. Aspetta che c'è anche Gio Maria. Gio Maria! Ok, già sono qua, buonasera, circolare. Ciao Bacchi, io Franco e Tore, riprendi Tore. Buonasera Gio Maria. Ok, adesso stai uscendo bene. Poco fa uscivi basso, a volte nulla, a volte basso. Andare, meglio così se mi sono tutti i gambi. Perché forse appena acceso, capito? Sì, andare. Ripigliati la Bacchi. Adesso, però là, le colonnine l'ho fatto zitto, infatti ho inscritto le colonnine e ti porto via la modulazione. Oddio, non andare, lì c'è qualche cosa che non va, e ti stacca il coso, l'attacco uno con l'altro, il jack, e così è. Avanti Franco! Ciao! Ma chi? Non è che le colonnine sono più alte di quelle dovuto di Home? Ma non ho guardate, sono le colonnine del computer. Probabile che non ce la faccia la radio a portarla. Per di solito ci vogliono. Perché le colonnine del computer sono fatte. Tutto parte da un cavo e poi si divide in due e devi fare due colonnine così. No, è proprio un cavo, sono dunque e sono più applicate queste qua, sto parlando quanti a me non ti scritto, non ti scritto quanti a me nulla, non la fare, non ti scritto. Ciao, no, strano che ti faccia quel difetto lì. Comunque risolleva la voce oppure aumenta il mitigating perché quasi quasi non ti sento. Mi chiamo mitigating. Pago. No, adesso vuoi sentirmi, dai. Sì, adesso alla perfezione. Poco fa ti stavo già perdendo nel QRM. Avanti Gio Maria, buonasera. Ciao Fra, buonasera. Bacchigio, ieri era 9.30, oggi è 9.20, strano è. Perché è stanco oggi, Gio Maria, ha parlato troppo ieri e dunque oggi è stanco. Ah, così è. E allora fallo riposare un pochettino. Vai, Bacchi, va. Non stiamo facendo le prove, ma hanno sempre funzionato le colonnine, le ho sempre usate. È già un paio di giorni che dice no, nada de nada, malate sono, non è importante. Su questa radio vanno benissimo, funzionano perfettamente bene, su quell'altro là innesca. Certo, guarda, io ne avevo uguale del computer, un senso, che prima le mettevo, agganciavo il coso dietro, siccome il computer si fa, come ti ho detto poco fa, no, parte con un cavo, poi si divide due cavi per una colonia e una per l'altra. In una radio mi andavano bene, anche con tutte e due colonnine, in una invece cominciavo a innescare, si tengono le divise e andavano bene. Poi le ho tolte e le ho buttate via perché mi stavano rompendo la scatola e l'ho dovuto me l'ho prese a forza per la radio. Battisti, se dove basso in tutto. Sicuramente, tocca al tasto. Ma tocca al tasto Battisti, che sta uscendo basso di segnale. Segnale zero. E adesso? Adesso sta uscendo bene. Sempre la stessa storia, to. Vuol dire allora sono le casse che te le innesca. Mi dimentico di commutare. Vuol dire che le casse non vanno bene per quella radio lì. Ah no, fischiano, innescano. Non vanno. Sì. Vuol dire che sono troppo alte, sono. O le devi separare. Togli quelle casse, non le attaccare, sennò ti può bruciare la radio. Sì, infatti non so casse. Io sto a casa perché innesca. Ehi, fai bene, buttale da una parte, che è meglio se sta la colonia. Non si sente bene quella della radio? Lui non va bene, su quell'altro là, sul keyboard ci va benissimo. Su questi qui, sull'Intec 34S l'ho sempre usato, sono state sempre collegate. Oggi, ieri, ha detto di no. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Qualcosa. Se erano sempre collegati andavano bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che è successo. Qualche mala sorte, ma io penso mi ha fatto male il sole all'antenna, è quello. Gian Maria si è allontanato, avanti tu. Ok. Vuol dire che Bacchì, vuol dire che le casse devono essere più alte e come ha aggiustato il microfono ti innescano. E infatti deve essere quello lì. Stiamo guardando. Allora qui ci dice, ascolta con l'autoparlante esterno, optional, vuole da 555 ohm. Sì, ma queste ti fanno. Con l'amplificazione ti rimangono più alte. Ehi, 555 dice. Capito? E quello lì vuol dire che è più alta. Sì, sono molto più alte quelle lì. Io ho quelle che ti ho fatto vedere, quelle lì attaccate. Sono separate però, Però le ho messe nello spinotto tutte e due insieme. Funziona benissimo, è un amore. Questo, ripeto, è sempre nel computer, però sono preamplificate, hanno un preamplificatore inserito. Se lo accendi e metti nel preamplificatore non funzionano, sono mute. Vuol dire che l'amplificazione è più alta di coso, e per quello ti fa innescare. Infatti già detto poco fa, sentivo il ritorno di frequenza. E peggio per lui, va. Lasciamo riposare, le useremo su qualche altra cosa. Bene, bene, io ne approfitto del micro perché l'ora per me è arrivata. Ora ci sentiamo domani, ce la vediamo, stammi bene, salute in correa familiare e a risentirci a domani. Io con Gianfranco, ciao Gianfranco, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto. A domani sul tuo concile. Ciao Gianmarì, buona serata, salute in casa, a domani, bye bye. Ciao Bacchi, ci sentiamo, ci è andato tutto, vai. A domani, vai, bravo. Ciao Battisio. Buona fine serata, buon tutto, buona cena, ce la ascoltiamo tutte le prossimine. Avanti tu. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo a mezzogiorno, ci sentiamo. Ok, ciao Bacchisio. Riprendetela a Gio Maria. Ok, state già ora di chiudere, per cui mi sono entrato per salutarmi. Per cui chiedo anch'io, vai, ci sentiamo domani. Ciao Franco, buon proseguimento e ciao Sole, vai, mi presento, io chiudo, vai, ciao. Ok, ciao Gio Mari, ci sentiamo alle prossime. Ok, si prende Fra. Ciao Gio Maria, buon proseguimento, buon tutto allora, anche a te, dai, ce la ascoltiamo. Certo. Sole, guarda, io come colonnina, com'è quella lì, io sto usando un 8 ohm, figurati nel cable, sto usando un 8 ohm, ed è la ST430 della cable, cioè poco fa hai detto 500 e vanno 4 ohm veramente dovrebbero essere, 4 ohm dovrebbero essere, poi va bene anche 8 ohm, va bene, però io il coso non lo so da quanto sia. Ecco, io sto usando, guarda, quella della Kevun, quella lì è 8 ohm, questa qua, aspetta a vedere se ce l'ha, SP 121, SP 121, l'uomo non se ne va a ridere manco baricratoli, no, l'uomo non se ne parla, qua, nell'altra che c'ho, però quella lì la sto usando per voi. Un attimino, no, quelle che sto usando io sono accoppiate al woofer, no, il woofer non l'ho messo, ho messo gli altri due, ho messo insieme, ecco, e sto usando quelle lì, è così. Ciao, sì, avanti break. Ok, ciao qua, ciao Tore, salutoni, ben ascoltati, qua, questo è il mio K, è stato riparato, come va? K, alla grande. E 4, sì? Sì, quello sì. Sì, me l'ha fatto un amico, mi ha fatto veramente un bel lavoro, dimmi, sua la grande, funziona perfettamente dappertutto. Ottimo, me lo immagino perché c'aveva quel difetto lì. E l'hai riparato, dovrebbe andare alla grande. Sì, no, io non l'ho voluto riparare, l'ho dato sempre a quell'amico, l'ho dato e non ne ho voluto sapere, meglio disfarmene, intanto non ne facevo niente di due e mi sono tenuto solo uno, me ne sono tenuto. Ok, sì, va bene, quella è stata una tua decisione, se andava bene così, sì, no, tutto a posto. Poi non ho preso nemmeno niente, guarda, nulla, me l'ha fatta in un giorno, me l'ha fatta, oggi gliel'ho consegnata oggi, l'indomani si è lavorato, l'indopodomani, anzi la sera stessa, la notte stessa, me l'ha fatta sentire e già funziona, si può immaginare. Vuol dire che non era così grave, non era. Ok, comunque non so se la radio o qualcosa c'hai vicino, sto avvertendo un tipo vento, una cosa così. Avanti Tore. Io non la sento neanche, io non la sento, perché ho abbassato il commutatore per non sentire il QRM e non la sento. Sì, c'è la ventola dell'alimentatore, perché ho il switching e c'è la ventola incorporata, quella che quando scalda l'alimentatore si mette in funzione, e dunque è quello che senti, anche perché è vicinissimo al microfono. Allora già ho sentito bene, sì, perché è un tipo ventola, quei ventolini che ci hanno, sì, non fa niente, dai, perché il microfono amplificato, non so che tipo stai usando un 1160, però quello lì raccoglie tutto, raccoglie, anche se è un pochettino a distanza. Avanti a te, fai girare. Sì, infatti. L'MC60, sì, con pochissimi watt, l'antenna è quella che sai, che è autocostruita, eccetera, eccetera, bassissima tra l'altro, nel terrazzo, sto parlando anche a voce molto bassa, per cui non penso che ci possano essere problemi nell'ascoltarle, per il semplice motivo che questo microfono è eccezionale. Ciao Tore, avanti. Giulio, sì, no. Così, buonasera. Sì, Giulio sono, alla grande. Anche tu mi arrivi molto bene, E Franco lo stesso, Franco mi arriva quasi con lo stesso segnale, mi è stato acceso la televisione, con lo stesso segnale tuo quasi mi è arrivato. Perché oggi ci siamo messi in coso forte. Arriviamo tutti e due forti, andate, riprende Fra. Io diciamo che con Giulio in linea d'aria ci vediamo, dai, in linea d'aria, è tutta un'altra cosa. solo che Giulio si è baciato un pochettino da quando ha cambiato l'antenna, però prima Giulio qua mi arrivava dai 9.15, 9.20, mi arrivava, e era fortissimo quando c'era la mappa, ma invece adesso si è abbassato un po', però 9.5 non è male, dai giù, avanti te. Ok, sì, potenza pochissima, proprio poco, 10 watt, mentre niente di più. Sì, appunto, lo sto dicendo, l'antenna autocostruita, la prototipo tipo Game Master, messa bassissima, però il giorno che mi salta in mente l'ha messo dove c'era prima la Mantova, che sarebbe più in alto di almeno 5-6 metri, e sicuramente la resa è come la Mantova, ne sono più convinto. Sì, l'ho tolta perché d'inverno, mamma mia, quando soffiava il vento, anche poco sentivo durante la notte i radiali che fischiavano, erano una meraviglia, era, mamma mia. Non si lasciava dormire, fra, è per quello che l'ho tolta. Però sempre, sia ben chiaro, e non fa l'uomo, tra l'altro, si può immaginare, 140 di cui io l'avevo pagata, e non è poco. E dunque, però adesso con questa mi sto difendendo bene ugualmente, e sono contento lo stesso, dai. Avanti, to. Infatti. A me arrivi 9.5, arrivi, quindi giù. Mi arrivi bene, la radio perfetta, buonissima. E si sente benissimo. Se come quello che ho io, arrivi forte. Sì, siamo tutti e tre con lo stesso segnale praticamente, dai. Solo che Franco ha più picchi positivi, perché quel picchi positivo arriva anche a 9.15. Avanti, Franco. Vabbè, devi considerare che io sto usando 680 con MC60, devi considerare, è tutto una trattura dalla radio che sta usando Tore, dove sta usando un veicolare normale, come ho sentito da Tore. Avanti tu. Sì, io sto usando un veicolare normale 80 canali, con un amplificato da tavolo, MV5. Vedi, è tutto diverso, dai. Io e tu, Giulio, stiamo usando due radio tutte diverse da quelle di Tore. E poi la posizione, diciamo che è tutta diversa, anche se arriviamo tutti e due allo stesso segnale, però io sono a sorso, lui è a Sassa, nel punto su, e tu sei da un'altra parte, più dura. Però siete lineari, siete più vicini a voi. Quello sì, è vero, tra me e Tore c'è meno distanza, c'è, che tra me e te ci mancherebbe, quello sì, però diciamo che andiamo bene, dai. Babbo, dai, vi saluto, adesso vi ho sentito, vi ho voluto salutare, ero un po' calci, ero su 10, che stavo facendo questo, ero su 10, e mi hanno chiamato per scendere la cerale, dai. Ci sentiamo domani, se eventualmente se coincide, o fra. Anche con te Tore, alle prossime, dai, ti ringrazio per il piccolo controllo e questo piccolissimo QSO, ci sentiamo domani, riprendi ancora fra, io ascolto fino a lì, lo tutti e due e poi chiudo, vai. Ok, giù, fatto piacere sentirti anche per poco, ce la riascoltiamo, e domani è un po' difficile, io da un periodo sono sempre in giro, vabbè dai, poi già mi fermerò, qualche giorno mi fermerò, più stabile. Ci sentiamo, ciao, buona cena, buon tutto, ce la ascoltiamo alle prossime, speriamo ogni settimana, dai. Infatti sono entrato adesso, pochi minuti sono entrato perché ero fuori e sono rientrato adesso a casa. Ciao, buon proseguo, buon tutto, ce la riascoltiamo. Avanti Tore, per i saluti a Giulio. Ok, ci sentiamo giù, alle prossime. Mi ha fatto piacere sentirti stasera, ok. Alle prossime, ciao Giulio. Di nuovo ciao a tutti e due, ciao, grazie ancora per la piccola chiacchierata, ciao ciao, chiudo. Ciao Giù. Cosa vuoi fare? Verito, diciamo che la radio, anche se c'è una radio buona, una radio professionale, semiprofessionale, o magari ti andava a fare una pezza. Sì, no, si riaccendo il burro che tu quello là mi senti più forte, mi senti anche però una giornata accendendo chissà che bisogna fare il caldino. Ma cosa c'hai con il 140? Già, c'è cioè quello lì che funziona benissimo. Ma ti dico che è meglio che lo metti in funzione, perché guarda, anche se hai l'intenzione di modulare, lo prendi, lo accendi un po' prima, lo accendi, però quello lì fallo andare, anche se quello lì, se lo lasci sempre fermo, quello lì ti porta difetti, ti porta pure. Meglio usarlo sempre, finché che ce l'hai. E poi, io guarda, ce l'ho e lo uso sempre, tutte le altre radio le ho accantonate. Ce l'ho una attaccata, il presidente Lincoln, ce l'ho attaccato, in ascolto in un dipolo e in altre frequenze. Però qua uso sempre questa perché è inutile averla e poi non usarla e rovinarsi. No, no, meglio la uso. E, infatti ne avevo due di queste, avevo 4,40 più 6,80 che mi è rimasto, tanto 4,40 l'ho venduto. L'ho venduto perché aveva dei difetti, l'ho dato a metà prezzo e l'ho buttato fuori. Quello sì, no? Ce l'ho avuto anch'io il 4,40, che hanno cominciato a difettarmi, e l'ho venduto. A uno d'Alghero l'avevo venduto, quello lì. Ce l'avevo anch'io, ce l'avevo, e l'avevo venduto, che non andava. L'anno scorso ho preso questo qua, il 140, mi è entrato nel coso e me l'ho preso. Capo, no, sono belle radio, proprio il 140, quello lì non è che difetta, non difetta, la 680 lo stesso, poi c'è il 430 che è buonissimo lo stesso, sono 440 che difetta un po', capita, alla fine si ferma, alla fine. No, ma questi vanno bene, io mi sono tenuto questo, la 680, questo c'è anche 6 metri, mi sono tenuto questo qua, mi sono tenuto. Però è perfetto, è nuovo, nuovo, è modula alla perfezione, la modulazione è sempre quella, quando scalda ce l'ho sempre a quei watt, ce l'ho a 30 watt. Anch'io ce li ho bassi, anch'io ce l'ho basso di watt, non ho messo altro, ce l'ho basso di watt. Quando avanti ieri l'ho acceso, ora sto facendo un giorno un giorno altro e un giorno faccio girare. Capo, tu c'hai solo un'antenna, c'hai, no, della 27? Sì, ce l'ho autocostruita. Capo, l'ho vista, è autocostruita, è una canola aperta. Basta metterti un dipolo e la 140 lo metti al dipolo, lo agganci al dipolo e lo usi, diciamo, in ascolto nelle bande radioamatoriali oppure dove vuoi. Sì, per quest'anno non ci salgo adesso sul tetto. Ma la voleva mettere coso? Luca, lo voleva mettere, poi ha detto una mano a saltare la buicata in noi, non di andare a finire. Infatti volevo fare così, volevo fare. Poi ho detto, ma sì, per quest'anno lascio così, poi il prossimo anno vedo. Cazzo. Io questo qua che sto usando io, il dipolo, non questo che sto usando adesso, ma adesso non lo sto usando, perché ce l'ho agganciato là. Quello lì ho preso le misure da internet e me lo sono costruito io. L'ho controllato, mi ho abbassato le stazionarie, quello per la 27 però. Mi ho abbassato le stazionarie, tutto quanto, e funziona bene. Credo che uno e due di stazionarie. Dovrebbe andare bene. E poi uno dei 40 metri, 40-80, 20 metri, 15-20 metri mi sembra, è tutto da piazzare, quello lì, e ancora sono a metterlo, c'è più di un anno lì appoggiato e ancora sono a piazzare. Più che altro per l'ascolto lo vorrei fare, però non la 27, vorrei usare per altro, non so, magari per i 10 metri. Sì, quello 10, 20, 30, 40 e 40 metri, molti. È uno di tipo quello che ho io. E me l'ha regalato l'amico, me l'ha regalato quello lì, già pronto, già tarato e tutto. E sono da piazzare, sono da una giugana. Vedi una gara, non hai gara da peccare. Infatti, così ne sacco. Il sacco che da Sant'Ennino che vede che non si fa nulla. Da solo un'antenna solo per il PMR, boh. Capo. E poi io non mi devo piacciare. Appoggio la scala al palo e sono già arrivato. Per dire. Non è che sono. Perché io sono in terrazza, e la terrazza io posso fare tutto quello che voglio, io se la abbasso l'antenna, la posso abbassare in giù, la abbasso senza neanche smontarla, niente, né tiranti, niente. Me la abbasso, sarà tipo carrello, me la abbasso e poi la tiro su di nuovo. Solo che da solo non viene bene perché è pesante poi a tirarla su. Quello è il brutto. Quello lì è il brutto, eh. Ah. Adesso vediamo il prossimo anno cosa faccio, se li faccio con il cavo a carrucola per tirarli su da una parte dall'altra, o non lo so, boh. Vediamo adesso cosa me ne esce fuori. Andare là, a me mi sociamenti. Ci sentiamo fra le prossime. Domani non lo so se entro perché ho un compleanno e quindi non lo so. Ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo. Ok fra, ben sentito è tutto. Via. No, domani mi sa che rientro tardi perché domani faccio un giro orgoso. Le faccio. Ci sono delle feste in giro e mi faccio un giro a città organizzata. E domani sera mi sa che la radio è come gli altri giorni, me la dimentico. Ciao Tore, buon pranzo, buona cena, buon tutto, e ce ne sentiamo, dai. E buon proseguo. Ok, ciao fra.